e quel che ho lo ripudo in festa per ciò che ho. Soffocante è quello che mi circonda e rende tutto difficile. Cancellerò ogni traccia di me. Hey! Devi dare il culo a volte per rendere tutto più facile. Va forte.